Ci fu una certa agitazione e un fruscio di carte. I magistrati della città si avvicinavano al pulpito per consultarsi con i ministri. Il dottor Mather riprese la parola. La donna indiana che è stata impiccata stamattina ha nominato alcune persone, dichiarando di averle viste alle orribili adunanze degli adoratori di Satana, ma in questo elenco non c'è il nome di Lois Barclay, anche se siamo impressionati di fronte ai nomi di alcuni. Un'interruzione, un consulto. E di nuovo il dottor Mather prese la parola. Portate la strega sotto accusa, Lois Barclay, vicino a questa povera, sofferente bambina di Cristo. Si precipitarono verso Lois per spingerla verso il punto dove giaceva Prudence, ma Lois si mosse da sola. Prudence, disse con voce così dolce e toccante che chi la sentì quel giorno ne parlò per molto tempo in seguito ai propri figli. Quando mai ti ho detto una parola scortese? Ho tantomeno fatto uno sgarbo. Parla, bambina cara. Poco fa non sapevi cosa stavi dicendo, vero? Ma Prudence si ritrasse da lei, smaniando e urlando come in preda a un nuovo attacco. Portatela via, portatela via! Strega Lois, solo stamattina mi ha buttata in terra e mi ha coperto di lividi il braccio. E si scoprì il braccio come a voler confermare le sue parole. Era gravemente contuso. Ma non ero vicina a te, Prudence. Disse Lois con tristezza, e questo non fece che comprovare ulteriormente il suo potere diabolico. La mente di Lois iniziò a confondersi. Strega Lois, lei una strega, aborrita dagli uomini. Eppure doveva tentare di pensare, di fare ancora uno sforzo. Zia Hickson, disse, e Grace venne avanti. Sono una strega, zia Hickson. Chiese, perché per quanto severa e arcigna e fredda potesse essere, la zia era la verità in persona e Lois pensò, così vicina era ormai al delirio, che se la condannava sua zia era davvero possibile che fosse una strega. Grace Hickson con riluttanza la guardò in faccia. Questa macchia resterà per sempre sulla nostra famiglia, era il suo pensiero. È Dio che deve giudicare se sei una strega o no, non io. Ahimè, ahimè. Gemette Lois, poiché aveva guardato Faith e aveva capito che nessuna parola buona le poteva venire da quel viso cupo, da quegli occhi rivolti altrove. L'edificio risuonava dell'eccitazione di voci soffocate dal rispetto per il luogo in un mormorio diffuso che sembrava riempire l'aria coi suoni di ferocia crescente, e quelli che da principio si erano ritratti dal posto dove era Lois cominciarono ad accalcarsi intorno a lei, pronti ad afferrare la ragazza giovane indifesa per portarla in prigione. Chi avrebbe potuto e dovuto esserle amico era ostile o indifferente, anche se Prudence era la sola ad accusare apertamente. La bambina maligna continuava a gridare che Lois le aveva fatto una fattura diabolica e supplicava di tener lontana la strega. E in realtà Prudence si contorse in modo bizzarro quando, per una o due volte, gli occhi perplessi e ansiosi di Lois si rivolsero a lei. Da più punti giungevano strane grida di bambine e donne apparentemente colte dallo stesso attacco convulso che aveva colpito Prudence. Le circondavano agitati gruppi di amici che mormoravano parole selvagge sulla stregoneria e sulla lista che era stata raccolta direttamente dalle labbra di Hota solo la sera prima. Pretendevano che fosse resa pubblica e protestavano contro le lungaggini della legge. Altri, non così direttamente o fortemente interessati alle vittime, stavano in ginocchio e pregavano a voce alta per se stessi e per la propria incolumità, in attesa che l'eccitazione si placasse, tanto da permettere al dottor Cotton Mather di far di nuovo sentire le sue parole di avvertimento e di preghiera. E Manassè, dov'era? E lui cosa disse? Dovete ricordare che lo scalpore suscitato dal nome urlato, l'accusa, gli appelli dell'accusata, tutto sembrava accadere contemporaneamente tra il brusio e il frastuono della folla che si era recata lì per adorare Dio, ma vi rimaneva per giudicare e biasimare una propria simile. Sino a quel momento Lois aveva visto solo di sfuggita Manassè, che evidentemente cercava di venire avanti mentre sua madre lo tratteneva con parole e gesti, come Lois sapeva che avrebbe fatto, poiché non era quella la prima volta che si rendeva conto di quanto accuratamente la zia avesse sempre protetta la buona reputazione del figlio dal minimo sospetto dei concittadini sui suoi periodi di eccitazione e di insania incipiente. Nei giorni in cui immaginava di sentire voci profetiche e di avere visioni, sua madre faceva di tutto per impedire a chiunque, a parte i familiari, di vederlo. E in quel momento, con intuizione più veloce del pensiero, le bastò quell'occhiata al suo viso, che le apparve esangue e contratto nell'intensità dell'espressione, tra tutte quelle facce semplicemente arrossate e feroci. Lois seppe che il suo stato avrebbe reso vano ogni sforzo della madre perché non si facesse notare. Non servì a niente la forza che Grace usò, e neanche i suoi argomenti, quali che fossero. Dopo un attimo fu a fianco di Lois, balbettando per l'eccitazione e fornendo testimonianze vaghe che sarebbero valse a poco in una corte di giustizia pacata e che per quel pubblico furono come olio su un fuoco che bruciava lento. Via, in prigione, scovate le streghe, il peccato si è diffuso in tutte le case, Satana è qui in mezzo a noi, colpite senza pietà. Invano risuonò la voce del dottor Cotton Mather in alte preghiere che incolpavano la ragazza accusata. Nessuno ascoltava. Tutti erano ansiosi di rinchiudere Lois, quasi nel timore che sparisse da un momento all'altro. Lei, pallida, tremante, inerte, nella stretta violenta di uomini estranei e feroci, mentre solo gli occhi dilatati vagavano di tanto in tanto alla ricerca di un viso pietoso. Uno solo tra quelle centinaia, e non fu possibile trovarlo. Mentre alcuni andavano a prendere corde per legarla e altri, con domande sussurrate, suggerivano nuove accuse al cervello sconvolto di Prudence, Manasseh riuscì ancora a farsi sentire. Rivolgendosi al dottor Cotton Mather, disse, evidentemente ansioso di esporre un argomento che gli si era appena presentato alla mente: Signore, che sia o non sia una strega, la fine di questa vicenda mi è stata predetta dallo spirito profetico, e dunque, reverendo signore, se l'evento era noto allo spirito, deve essere stato predestinato nei concili di Dio. E allora perché punirla per aver compiuto ciò che non era libera di scegliere? Mio giovane uomo, disse il dottor Mather, sporgendosi dal pulpito e guardando Manasseh con grande severità, stai attento, rasenti la blasfemia. Non mi importa, lo ripeto, o Lois Barclay è una strega o non lo è. Se lo è stata predestinata a esserlo, poiché per mesi e mesi ho avuto una visione della morte di Lois, condannata per stregoneria, e la voce mi ha detto che vi era solo una possibilità di salvezza per lei. Lois, la voce che sai. Nella sua eccitazione cominciò un po' a divagare, ma era commovente vedere come era consapevole che lasciandosi andare avrebbe perso il filo dell'argomentazione logica con cui sperava di dimostrare l'impunibilità di Lois e con quale sforzo strappava la sua immaginazione dalle vecchie idee e lottava per concentrare la mente sulla perorazione, volta a dimostrare che se Lois era una strega, l'evento gli era stato rivelato dalla profezia, e se vi era profezia vi doveva essere prescienza, se prescienza predestinazione, se predestinazione assenza di libero arbitrio, e dunque Lois non era giustamente passibile di pena. Continuò a parlare, sprofondando nell'eresia, non curandosene, più infervorato di minuto in minuto, ma attento a tradurre la sua passione in serrato argomento e disperato sarcasmo, senza permetterle di eccitare l'immaginazione. Persino il dottor Mather si sentì sul punto di avere la peggio, davanti all'intera congregazione, che solo mezz'ora prima lo aveva considerato quasi infallibile. Non ti abbattere, Cotton Mather. Gli occhi del tuo rivale si vanno facendo lucidi e sfavillanti di bagliori terribili e incerti allo stesso tempo. Il suo discorso va perdendo incoerenza, alle sue argomentazioni si mescolano squarci selvaggi su rivelazioni ancora più selvagge fatte a lui soltanto. Ha raggiunto il limite, ha oltrepassato i confini della blasfemia e con un urlo tremendo di biasimo e di orrore la congregazione è tutta in piedi contro il bestemmiatore. Il dottor Mather sorrise beffardamente, e la folla fu pronta a lapidare Manasseh, che incurante continuava a parlare e vaneggiare. Fermi, fermi, disse Grace Hickson, mentre nell'imminente pericolo di vita scompariva la difesa del decoro e il senso del pudore, che le avevano fatto nascondere la misteriosa sventura del suo unico figlio agli occhi della gente. Non lo toccate, ha un attacco. Vi dico la verità davanti a Dio, mio figlio, il mio unico figlio, è pazzo. A quelle parole rimasero atterriti. Il giovane concittadino, serio, che giorno dopo giorno era vissuto silenziosamente accanto a loro, senza troppi contatti, è vero, ma forse proprio per questo rispettato maggiormente. Lo studioso di astrusi libri teologici, in grado di conversare con i più dotti ministri mai giunti da quelle parti, era lo stesso uomo che in quel momento riversava parole selvagge sulla strega Lois, come se lì presenti non vi fossero che loro due. Una risposta a tutto si fece strada nella loro mente. Anche lui era una vittima. Immenso era il potere di Satana. Attraverso i suoi artifici diabolici, quella bianca statua di una ragazza aveva soggiogato l'anima di Manasseh Ixon. E così la parola passò di bocca in bocca e Grace la sentì. Fu come un balsamo per lenire la vergogna. Consapevolmente, disonestamente cieca, non volle vedere, neppure nel segreto del suo cuore volle riconoscere che Manasseh era stato strano e scontroso e violento molto prima che la ragazza inglese arrivasse a Salem. Trovò perfino un motivo capzioso al suo tentato suicidio di tanto tempo prima. Aveva avuto la febbre, per quanto si fosse relativamente ripreso. Il delirio non era scomparso del tutto, ma da quando era giunta Lois, com'era ostinato a volte e irragionevole e scontroso. Che strana illusione nutriva su una voce che gli diceva di sposarla, e che determinazione a seguirla dappertutto e a starle attaccato, quasi fosse forzato ad amarla. E su tutto predominava l'idea che se davvero soffriva perché stregato, allora non era pazzo, e se si fosse infranta la malia che lo legava, avrebbe potuto rioccupare nella congregazione e nella città la posizione onorata di un tempo. Così Grace fece propria e incoraggiò negli altri l'opinione che Lois Barclay avesse stregato sia Manasseh che Prudence. E in conseguenza di questa convinzione, Lois doveva essere processata, con poche probabilità a lei favorevoli, per vedere se era o non era una strega, e se lo era, per vedere se avrebbe confessato, implicato altri, e se si sarebbe pentita per vivere una vita di amara vergogna, evitata da tutti, trattata crudelmente dai più, o se sarebbe morta impenitente, caparbiamente negando il suo crimine fin sulla forca. E così la trascinarono via dalla congregazione cristiana in prigione ad attendere il processo. Ho detto la trascinarono poiché, pur disposta a seguirli docilmente dovunque avessero voluto, era ormai così debole da aver bisogno di un sostegno. Povera Lois. Lei che nella sua estenuazione avrebbero dovuto portare e accudire con amore e che invece tutti, convinti della sua complicità nelle pratiche maligne di Satana, detestavano a tal punto da trattarla con la stessa indifferenza di un bambino che maneggia un rospo prima di gettarlo oltre il muro. Quando Lois tornò in sé, si trovò distesa su un lettino duro, in una stanza quadrata e buia che, come intuì subito, doveva far parte della prigione cittadina. Aveva una superficie di circa 8 piedi, muri di pietra su ogni lato e una grata in alto da cui entrava quel po' di luce e aria che l'apertura di un piede quadrato lasciava filtrare. Tutto era così triste, così tetro per la povera ragazza che lentamente e dolorosamente rinveniva dal suo lungo deliquio. Aveva un bisogno estremo di aiuto nella fatica che sempre sopravviene dopo uno svenimento, quando lo sforzo di aggrapparsi alla vita e la volontà sembra non farcela. Da principio non capì dov'era, non capì come vi era giunta e nemmeno le importava di capire. L'impulso istintivo fu di continuare a giacere immobile e dar tempo al tumulto delle emozioni di calmarsi. Così richiuse gli occhi, con infinita lentezza il ricordo della scena nel luogo di riunione si configurò davanti a lei come una sorta di quadro. Fu come se da dietro le palpebre vedesse quella distesa di facce piene di ribrezzo che la fissavano come qualcosa di immondo e odioso. E dovete ricordare, voi che nel XIX secolo leggete questo resoconto, che la stregoneria era un peccato spaventoso per lei, Lois Barclay, 200 anni fa. L'espressione di quelle facce, impressa nel cuore e nella mente, stimolò in lei una sorta di strana partecipazione. Poteva mai essere vero? Mio Dio, che Satana esercitasse su di lei e sulla sua volontà quel potere terrificante di cui aveva sentito e letto. Poteva essere realmente posseduta dal diavolo, realmente essere una strega, eppure non averlo saputo fino ad allora. E l'immaginazione, eccitata, richiamò con singolare vivezza tutto quello che le era capitato di sentire sull'argomento. L'orrendo sacramento di mezzanotte, l'effettiva presenza di Satana, il suo potere. Ricordando poi ogni pensiero irato contro il suo prossimo, contro l'impertinenza di Prudence, contro l'arrogante autorità di sua zia, contro l'ostinazione folle della richiesta di Manassè, l'indignazione, solo quella mattina, ma ormai lontana epoca nel tempo per lei divenuto reale, per l'ingiustizia di Faith. E quei pensieri potevano mai essersi caricati di potere demoniaco ad opera del padre di ogni male ed essersi sparsi a sua insaputa nel mondo come maledizioni operanti? E così, selvaggiamente, turbinavano i pensieri nella mente della povera ragazza, la ragazza scagliata all'interno di sé. Infine, l'assillo smanioso dell'immaginazione la spinse improvvisamente ad alzarsi. E questo cos'era? Un peso di ferro ai piedi? Un peso che in seguito il carceriere di Salem dichiarò non superiore alle 8 libbre. Fu un bene per Lois che si trattasse di un male tangibile, che la riportò indietro dai deserti sconfinati e selvaggi in cui la sua immaginazione vagava. Prese in mano il ferro. Vide la calza rotta, la caviglia contusa e cominciò a piangere pietosamente per una strana compassione verso se stessa. Temevano dunque che persino in quella cella trovasse il modo di fuggire. Ebbene, l'assoluta ridicola impossibilità della cosa la convinse di essere innocente e ignara di poteri soprannaturali e il ferro pesante curiosamente la fece rinvenire dalle illusioni che sembravano infittirsi intorno a lei. No, mai sarebbe potuta volar via da quella profonda prigione, non vi era possibilità di scampo naturale o soprannaturale per lei se non attraverso la pietà umana. E cos'era la pietà umana in quel tempo di panico? Lois sapeva che non era nulla. L'istinto, più che la ragione, le diceva che il panico richiama la codardia, la crudeltà. Eppure, quando si trovò con i ferri ai piedi, pianse, pianse liberamente e per la prima volta. Era così crudele. Sembrava che il suo prossimo avesse davvero imparato a odiarla e a temerla. I pensieri collerici ne aveva avuti, è vero, Dio la perdonasse, ma non si erano mai concretati in parole e tantomeno in azioni. E in realtà, persino in quel momento avrebbe potuto amarli tutti, i suoi familiari, se solo glielo avessero permesso. Sì, persino allora, pur sapendo che erano state l'aperta accusa di Prudence e la reticenza di sua zia e di Faith ad averla ridotta in quella grave situazione, sarebbero mai venuti a trovarla. Pensieri più gentili verso di lei, che per mesi e mesi aveva diviso con loro il pane quotidiano, li avrebbero mai condotti lì per chiederle se davvero avesse provocato il male di Prudence, il disordine mentale di Manassè? Non venne nessuno. Pane e acqua furono spinti nella cella da qualcuno che frettolosamente aprì e richiuse la porta. E non si curò di vedere se erano a portata di mano della prigioniera. O forse pensò che i fatti fisici contassero poco per una strega. Ci volle molto tempo prima che Lois riuscisse a raggiungerli. Non le era scomparsa del tutto la fame naturale della giovinezza, e fu quella a suggerirle di allungarsi sul pavimento, sforzandosi faticosamente di arrivare al pane. Dopo averne mangiato un po', la luce del giorno cominciò a svanire e pensò di stendersi per cercare di dormire, ma prima di farlo, il carceriere la sentì cantare l'inno della sera. Gloria a te, mio Dio, in questa notte, per tutte le benedizioni della luce. E un ottuso pensiero si affacciò alla sua mente ottusa. Poteva essere grata di ben poche benedizioni se dopo quella giornata intonava l'inno di ringraziamento di ciò che, se era una strega, era stata la vergognosa rivelazione delle sue pratiche abominevoli, e se non lo era. Ma a questo punto delle sue considerazioni stupite, la mente gli si arrestò bruscamente. Lois si inginocchiò e disse il Pater Nostro, esitando un attimo davanti a una sola clausola, per essere sicura di perdonare davvero dal profondo del cuore. Poi si guardò la caviglia e di nuovo le si riempirono gli occhi di lacrime, ma non tanto perché sentiva dolore, quanto perché gli uomini dovevano odiarla spietatamente se la trattavano così. Poi si stese e si addormentò. Il giorno seguente fu condotta dinanzi al signor Hathorne e al signor Kerwin, giudici di Salem, per essere formalmente e pubblicamente accusata di stregoneria. Ve n'erano altre insieme a lei con la stessa imputazione, e quando le prigioniere furono fatte entrare, la folla inorridita si mise a urlare contro di loro. Le due Tappau, Prudence e una o due bambine della stessa età si trovavano lì nel ruolo di vittime stregate. Le prigioniere furono fatte fermare a una distanza di 7 o 8 piedi dai giudici e le accusatrici stavano in mezzo a loro. Alle imputate fu poi ordinato di mettersi esattamente davanti ai giudici. Lois ubbidì a ogni singolo comando con la docilità stupita di una bambina, ma senza alcuna speranza di intenerire il duro sguardo insensibile, carico di ribrezzo che era su tutte le facce intorno a lei, tranne su quelle che una rabbia ancora più feroce deformava. Poi a un ufficiale fu detto di tenerle tutte e due le mani e il giudice Hathorne le ordinò di fissare gli occhi su di lui senza distoglierli, poiché temevano, questo comunque non le fu detto, che guardando Prudence la bambina potesse avere un attacco convulso o mettersi a urlare per improvvisi e violenti dolori. Se qualcuno in quella massa crudele si fosse potuto commuovere, avrebbe provato pietà per il viso soave e giovane della ragazza inglese, attenta a eseguire docilmente quanto le ordinavano, quel viso così bianco eppure così pieno di triste dolcezza, quegli occhi grigi un po' dilatati per la solennità stessa della sua posizione, fissi sul volto severo del giudice Hathorne, con lo sguardo intento della casta innocenza. Rimasero così, in silenzio, per un lungo trepidante minuto. Poi fu loro ordinato di recitare il Paternostro. Lois lo disse come se fosse stata sola nella sua cella, ma come aveva fatto da sola nella sua cella la notte precedente, si fermò un attimo prima di pregare di essere perdonata come lei perdonava. E a quell'attimo di esitazione, come se non avessero atteso altro, tutti urlando la proclamarono strega. E quando il frastuono cessò, i giudici ordinarono a Prudence Hickson di venire avanti. Allora Lois si girò leggermente di lato, desiderosa di vedere almeno un viso conosciuto, ma quando il suo sguardo si posò su Prudence, la bambina si immobilizzò, non rispose ad alcuna domanda, non disse una sola parola. E i giudici dichiararono che la stregoneria l'aveva resa muta. Poi qualcuno da dietro prese Prudence sotto le braccia, cercando di spingerla in avanti a toccare Lois, ritenendo forse di poter curare così la bambina stregata, ma non le aveva neanche fatto percorrere 3 passi che Prudence si divincolò dalla stretta e cadde a terra, contorcendosi come in preda a una crisi, urlando e supplicando Lois di aiutarla e salvarla dal suo tormento. Poi tutte le bambine cominciarono a ruzzolare come maiali, per usare le parole di un testimone, e a urlare contro Lois e le altre prigioniere. A costoro fu ordinato di rimanere in piedi, allargando le braccia, poiché si credeva che se i corpi delle streghe venivano disposti a forma di croce avrebbero perduto il loro empio potere. Dopo qualche tempo Lois sentì le forze venirle meno per l'affaticamento della posizione inconsueta che aveva sopportato pazientemente sinché il dolore e la stanchezza le avevano bagnato il viso di sudore e lacrime. Allora, gemendo, chiese a bassa voce di potersi riposare un po', appoggiando la testa al tramezzo di legno. Ma il giudice Hathorne le disse che la forza per tormentare gli altri ce l'aveva e quindi poteva benissimo star dritta. Sospirò appena e continuò a sopportare, mentre il clamore contro di lei e le altre accusate cresceva di minuto in minuto. L'unico modo per non perdere completamente conoscenza era di non pensare alla sofferenza e al pericolo di quel momento, recitando dentro di sé versi dei salmi, come riusciva a ricordarli, sulla fede in Dio. Infine fu dato l'ordine che la riportassero in prigione, e vagamente capì che per lei e alcune altre era stato emesso il verdetto di impiccagione per stregoneria. Molti sguardi famelici si fissarono allora su Lois per vedere se avrebbe pianto per la condanna. Se avesse avuto la forza per piangere, forse avrebbe potuto, ma che lo facessero davvero era solo una possibilità, considerarlo un argomento in sua difesa, dato che le streghe non potevano versare lacrime, ma lei era troppo spossata e stordita. L'unica cosa che voleva era distendersi di nuovo sul letto della cella, irraggiungibile agli urli di ribrezzo degli uomini, inaccessibile ai loro sguardi crudeli, e così la riportarono in prigione senza parole e senza lacrime. Ma il riposo le restituì la capacità di pensare e di soffrire. Era dunque vero che doveva morire. Lei, Lois Barclay, con tutta la salute, la giovinezza, l'amore, la speranza di un tempo, prima di quegli ultimi pochi giorni, cosa avrebbero detto a casa, la sua vera amata casa Bedford in Inghilterra? Lì l'avevano amata, lì se n'era andata in giro tutto il giorno per i bei prati in riva all'Avon, cantando felice. Ma perché erano morti suo padre e sua madre, lasciandole quell'imposizione di venire nel paese crudele della Nuova Inghilterra, dove nessuno l'aveva voluta, nessuno si era preso cura di lei, e dove ora stavano per mandarla a morte vergognosamente come una strega? E non vi era nessuno a cui affidare messaggi di amicizia per quelli che mai più avrebbe rivisto, mai più. Il giovane Lucy era vivo, allegro. Forse pensava a lei e alla sua espressa intenzione di venirla a prendere quella stessa primavera per portarla a casa e sposarla. Forse l'aveva dimenticata, chi poteva saperlo? Solo una settimana prima si sarebbe indignata a quella sua sfiducia nell'aver potuto pensare anche solo per un attimo che lui l'avesse dimenticata. Ma a quel punto diffidò per qualche tempo della bontà di chiunque, poiché gli uomini intorno a lei erano implacabili, crudeli e spietati. Poi si girò e si prese a schiaffi per aver dubitato di lui. Oh, se solo fosse stata con lui, se solo avesse potuto essere con lui, non l'avrebbe lasciata morire. L'avrebbe nascosta tra le braccia, proteggendola dalla furia di quella gente, e l'avrebbe riportata nella sua vecchia casa di Bedford. E forse in quello stesso momento navigava sul grande mare blu, ed era sempre più vicino, sempre più vicino. Ma sarebbe giunto troppo tardi lo stesso. Così i pensieri si inseguirono nella sua mente eccitata per tutta la notte, sinché spasmodicamente si aggrappò alla vita e freneticamente pregò di non morire, almeno non così presto, non così giovane. Il giorno seguente, a tarda mattina, il pastore Tappau e alcuni consiglieri la svegliarono da un sonno pesante. Per tutta la notte aveva tremato e pianto, sinché la luce del mattino era filtrata tra le sbarre della finestrella quadrata, su in alto, calmandola e facendola addormentare, sinché, come ho detto, fu svegliata dal pastore Tappau. «Alzati!» le disse, evitando di toccarla, superstiziosamente convinto dei suoi poteri diabolici. «È mezzogiorno!» «Dove sono?» disse Lois, frastornata dal risveglio inconsueto e dallo spiegamento di facce severe che la fissavano cariche di biasimo. «Sei nella prigione di Salem, condannata per stregoneria». «Ahimè, per un attimo me ne ero dimenticata», disse, chinando la testa sul petto. «Di sicuro è stata fuori tutta la notte per una delle sue cavalcate infernali e stamattina è stanca e confusa», disse uno, a voce bassa, che non credeva di poter essere udito. Ma lei alzò gli occhi e lo guardò con muto rimprovero. «Siamo venuti», disse il pastore Tappau, «per esortarti a confessare il tuo peccato, grande e multiforme». «Il mio peccato grande e multiforme», ripeté Lois tra sé, scuotendo la testa. «Sì, il tuo peccato di stregoneria. Se confessi, vi può essere ancora balsamo a Galad». Uno dei consiglieri, preso da pietà per l'aspetto esangue e smunto della ragazza, disse che se confessava e si pentiva ed espiava era ancora possibile che le fosse risparmiata la vita. Un lampo improvviso le illuminò gli occhi infossati e opachi. Era ancora possibile vivere? Era ancora in suo potere riuscirvi? E poi, chi poteva dire quanto fosse imminente l'arrivo di Hugh Lucy, che l'avrebbe portata via di là per sempre, per darle la serenità di una nuova casa, vita? Oh, allora non ogni speranza era perduta, forse poteva ancora vivere, poteva non morire, ma ancora una volta la verità le uscì dalle labbra, quasi senza intervento della sua volontà. «Non sono una strega», disse.